Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Subito la mail: unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Allora, oggi parliamo di un abuso, diciamo così, alla libertà di espressione di un uomo, di ciascuno di noi. È un regista, ma potrebbe essere chiunque di noi, che dice no alle mafie, e lo dice in una maniera che io trovo coinvolgente e straordinaria. Che cosa succede? Ci troviamo in Lombardia, cari radioascoltatori, non ci troviamo né a Crotone né a Gela. Ci troviamo in Lombardia, siamo in un paese in provincia di Lodi, a Tavazzano con Villavesco. Ebbene, in questo piccolo paese della piccola provincia di Lodi c'è un regista che si chiama Giulio Cavalli, attore e regista teatrale, che gira l'Italia con la sua ultima rappresentazione che ridicolizza la mafia, la malavita organizzata, che è ciò che va fatto e va insegnato fin dalle scuole elementari, ridicolizzare questi qua qua qua, come li chiamava Sciascia. Lo spettacolo si chiama Dout Desse. Che cosa succede? Succede che nella civile Lombardia, nella civile provincia di Lodi, qualche buon tempone si diverte a imbrattare il furgone della compagnia di cavalli con scritte smettila, cioè smetti di rompere le scatole con questi temi, non ti dimentichiamo, è uno straordinario Rina libero. E oggi di questo noi, cari radioascoltatori, parliamo, e lo facciamo anche perché domani, nell'altra mia trasmissione in onda su Radio 24, Guardie o Ladri, parleremo proprio di mafia in Lombardia e ne scoprirete delle belle. Chi mi segue sa che io amo parlare di economia criminale e criminalità organizzata al nord, perché è qui che si fanno affari. E la prima domanda la chiedo e la faccio proprio al nostro regista Giulio Cavalli. Buongiorno Cavalli. Buongiorno a tutti. Allora, la civile Lombardia è immune dal fenomeno mafioso? Assolutamente no, è uno dei territori più fertili per tutte le mafie italiane, non solo, perché la civile Lombardia ha una caterva di fatture in cui molto più facilmente possono venire infilate quelle che servono per riciclare il denaro sporco. Ecco, come ha preso questi simpatici gesti di amore nei confronti del suo lavoro e della sua opera, che invito a, come dire, ad andare a vedere tutti gli abitanti lombardi e tutti coloro i quali si trovano in questo momento nella provincia di Lodi, appunto Dout Desse. Ecco, come ha giudicato questo gesto di questi simpatici buontemponi? Guarda, io sono 7 mesi che ricevo queste zotiche e barbare avvisaglie, no? dei nostri simpatici amici degli amici. Per cui purtroppo, visto che si dice che ci si abitua a tutto, ormai ci ho fatto il callo. Credo, al di là della spettacolarizzazione delle minacce, che non amo e penso che non faccia assolutamente nemmeno del bene per l'antimafia, credo che ci sia da riflettere sul fatto che in Lombardia siamo passati allo stadio successivo, quindi da quello semplicemente di interesse economico, per cui prendere gli appalti dei cantieri nel modo più silenzioso possibile, come ha insegnato zio Binnu, ha invece queste metastasi che sono proprio il messaggio scritto sui muri o sui mezzi della gente che cerca, come me, in modo molto umile e semplice, e per il lavoro che facciamo, di insegnare a tutti che avere paura di queste persone vuol dire prostrarsi a un racket culturale che è grave tanto quanto racket. Assolutamente. Allora, io ricordo che in questo momento in Lombardia ci sono altri spettacoli teatrali che, come dire, ridicolizzano il mondo delle mafie. Ricordo ad esempio che il Teatro Cagnoni di Vigevano ospiterà Gomorra e lo ospiterà fino al 30 di novembre. Quindi ci sono grandi rappresentazioni teatrali di grandi temi tratti da libri di successo come quelli di Roberto Saviano, ma c'è l'impegno quotidiano in giro per l'Italia di tante compagnie coraggiose, attori e registi che dicono no alle mafie. Allora, Cavalli è anche, non soltanto ha fondato a Lodi nel 2001 la compagnia Bottega dei Mestieri Teatrali, ma dalla stagione scorsa 2007-2008 è anche direttore artistico del Teatro Nebbiolo di Tavazzano con Villavesco. Quindi questo perché lo dico? Perché va dato atto all'amministrazione comunale di Tavazzano con Villavesco, di cui non so neppure di che colore abbia la giunta e non mi interessa, di aver chiamato una persona degna a svolgere un ruolo importante. Ed è per questo che io ne parlo con il sindaco Giuseppe Stroppa. Buongiorno. Buongiorno. Allora Stroppa, come è rimasto lei nel sapere di questa ennesima, come abbiamo sentito dalla voce di Cavalli, simpatica dimostrazione di affetto nei confronti di chi si impegna quotidianamente contro le mafie? Sono rimasto molto preoccupato insieme a me l'amministrazione comunale. Noi diciamo riteniamo di non aver fatto nessuna scelta né coraggiosa né eroica. Cavalli è un ottimo professionista. Noi abbiamo fortunatamente, siamo riusciti in questo progetto di avere un piccolo teatro di provincia che ha grande ambizione da un punto di vista artistico e culturale, e abbiamo affidato attraverso un bando aperto a tutti che è stato vinto appunto per progettualità da Giulio Cavalli. La preoccupazione rispetto a queste intimidazioni è molto alta, nel senso che la nostra preoccupazione è relativa al fatto che non ci sembra una cosa possibile che nella civile Italia, nell'operosa Lombardia e in una provincia tutto sommato tranquilla, dove i fenomeni di questi assimilabili alla mafia abbiano mai trovato spazio sui giornali, debbano succedere queste cose e che non si riesca a portare avanti un'attività artistica in maniera serena, ma ci si debba in qualche modo trovare davanti a questi, esatto, a questi fatti. Ecco, io le faccio questa domanda, sindaco Stroppa. Alcuni giorni fa sono rimasto colpito dalle dichiarazioni di una cittadina di Lecco che, di fronte ad un omicidio avvenuto di una persona originaria della provincia di Crotone, probabilmente ucciso per una questione di regolamento di conti tra criminali, ha dichiarato al TG1: fino a ieri qui a Lecco ci conoscevamo tutti e mai avremmo pensato di subire un attacco così violento come la morte per mano criminale di una persona. Oggi comincerò a vedere i cittadini, i miei concittadini, con occhi diversi, perché non so da quale parte può provenire il pericolo. Allora le chiedo, sindaco Stroppa, nella sua cittadina, nella sua provincia, cresce la sensibilità nei confronti di un tema che non coinvolge più soltanto la Campania, la Calabria, la Puglia, la Sicilia, perché lì è storia, ma coinvolge oramai il centro-nord? Oppure, come dire, ancora ci si bea del fatto che, essendo il nord Italia, si è immuni da certi pericoli e da certe infiltrazioni? Ah, io credo che ci sia una percezione, diciamo, del cittadino comune che questo fenomeno riguardi solo le regioni meridionali. Credo dall'altra parte, in maniera molto onesta, senza aver fatto particolari iniziative, che la sensibilità delle istituzioni sul territorio, nella provincia di Lodi, con la carovana antimafia, con, certo, iniziative di vario genere, anche mettendo nei capitolati dell'appalto delle mense i generi che provengono dalle cooperative che coltivano sui terreni confiscati alla mafia, certo, esatto, certo. Sì. Io ringrazio il sindaco Stroppa. Un'ultima domanda veloce a Cavalli: dove andrete dopo la vostra tappa a Tavazzano con Villavesco in provincia di Lodi? L'ospedale spettacolo in questo momento si blocca, non perché, come credono i nostri cari amici, abbiamo voglia di bloccarti, ma semplicemente per diventare qualcosa di più importante. Io sto preparando un progetto su uno dei processi ad un senatore a vita italiano che ci ha raccontato la mafia degli ultimi 30 anni in Italia. Sto portando avanti un altro progetto sulla mafia al nord, perché è ora che si costringa la gente ad osservare che il cartello delle mafie sta operando a pochi metri da casa propria. Certo. E tutte le settimane, insieme a molti amici dell'antimafia siciliana, quelli che veramente combattono in trincea e hanno a che fare con cose più spaventevoli di scritte ridicole sul furgone, stiamo portando avanti un'ideale continuazione di Radio Out e di Onda Pazza di Peppino Impastato con Radio Mafiopoli, che viene ospitato su diversi Benissimo. Blog e su diverse televisioni. Allora, grazie anche a Cavalli, vi do appuntamento domani alle 19.30. Parleremo delle mafie in Lombardia alle 19.30 con Guardie o Ladri. Da Roberto Galullo una buona giornata a tutti e a risentirci con Un Abuso al Giorno lunedì prossimo.